Storie italiane. Il re e l'orco. C'era una volta un re di nome Harry che si annoiava della sua banale vita quotidiana. Raggiunse un punto in cui era così annoiato che decise di esplorare il mondo e sperimentare cose nuove. E così, un giorno, consegnò il regno ai suoi ministri, si sbarazzò delle sue vesti reali e indossò un abito comune. Ma prima di partire, chiese il consiglio del mago reale. Il percorso che intraprenderai è sconosciuto e incontrerai mostri che potrebbero accecare la tua coscienza con tentazioni. Non lasciarti tentare dalle apparenze. Scegli saggiamente e ricorda, non tutto ciò che luccica è oro. Harry annuì e iniziò il suo viaggio. Dopo aver viaggiato per ore, fu presto stanco e decise di riposare sotto un melo, ignaro del fatto che un serpente velenoso vi risiedesse. Si addormentò e il serpente strisciò verso di lui per morderlo. Ma al momento giusto, una donna che passava di lì lo scacciò con un bastone. Shush! Il rumore risvegliò Harry. Cosa? Cos'era quello? Harry notò una donna con le lentiggini sul viso e i capelli ricci. Ma prima che potesse dire qualcosa, lei scappò via. Penso che sia rimasta incantata dal mio bell'aspetto. Mi sento ancora così assonnato. Fammi sciacquare un po' il viso. Oh cielo, guardatemi, un ragazzo così bello. Rise pieno d'orgoglio e continuò il suo viaggio. Dopo aver viaggiato per ore, si imbatté in una vecchia dimora fatiscente, in cui risiedeva un orco. L'orco lo invitò per una partita a dadi. Entrando, Harry notò che l'orco aveva reso schiave delle fanciulle perché si prendessero cura della sua dimora. Tra queste, Harry notò la donna che gli aveva salvato la vita. Oh, benvenuto, re Harry. È un tale piacere riuscire a giocare a dadi con te. Lascia che ti dica le regole del gioco. Certo, vai avanti. Se perdi, dovrai darmi qualcosa in cambio. Costruirò un nuovo castello per te. Ma se vinco, come premio, voglio sposare una di queste fanciulle. Vincere? Stranieri da regni lontani mi hanno sfidato a questo gioco, ma nessuno mi ha ancora sconfitto. Vedremo. Iniziamo il gioco? Certo. E così iniziò un intenso gioco di dadi. Andò avanti per ore. E alla fine, Harry vinse. Sì! Prendi questo! Ho vinto! Ok, va bene. Ti ho sottovalutato. Dimmi, quale di queste fanciulle vorresti sposare? Guardando le belle fanciulle, Harry fu inizialmente tentato di sposarne una, ma ricordò le parole del mago. Non tutto ciò che luccica è oro. Voglio sposare lei. Elsie? Perché ci sono fanciulle più belle di lei? Forse sono più carine, ma è lei che voglio sposare, perché so che è una brava persona. Confuso, l'orco annuì e Harry prese le mani di Elsie. Oh, grazie mille! Mi hai salvato la vita! Lui sorrise e insieme lasciarono la dimora dell'orco e tornarono al regno. Presto si sposarono e venne celebrato un matrimonio reale. Il mago benedisse la coppia di sposi e tutto il popolo del regno se ne rallegrò. Trascorsi alcuni giorni, Harry decise di sfidare di nuovo l'orco. Farò una partita a dadi con l'orco. Lo sconfiggerò ancora. Caro, temo che potresti non essere fortunato questa volta. Potrebbe sconfiggerti. No, non preoccuparti, tesoro. Non sarà mai in grado di sconfiggermi. Sono io e non la mia fortuna a vincere la partita. Dimmi, cosa dovrei chiedere quando vincerò questa volta? Ha un bellissimo cavallo marrone nella sua stalla. Portami quello. Sei sicura? Puoi chiedere qualsiasi cosa. Sì, mio caro, sono sicura, perché quello era il mio cavallo. Oh, in questo caso lo riconquisterò per te. Detto questo, il re partì per sfidare l'orco a un'altra partita di dadi. Giocarono per ore e, ancora una volta, fu Harry a vincere. Vittoria! Alla faccia tua, orco! Questa volta vorrei il cavallo marrone che è nella tua stalla. Appartiene a mia moglie. Va bene, puoi averlo, ma non sarai così fortunato la prossima volta. Harry fece l'occhiolino e tornò dalla sua regina con il cavallo marrone che lei aveva chiesto. Nelle settimane successive, Harry si riempì di fiducia e fu accecato dalla sete di sconfiggere l'orco per la terza volta. Ma, amore mio, cosa succede se non vinci? Adesso sono sicuro che non c'è nessuno abbastanza bravo da sconfiggermi in questo gioco di dadi, quindi non ti preoccupare. Vincerò e gli chiederò tutto quello che ha. E se ne andò nella dimora dell'orco. E di nuovo giocarono con grande intensità, ma questa volta le cose non andarono a suo favore. L'ego di Harry cadde a pezzi quando fu sconfitto dall'orco. No! Questo non può essere! Hai barato! Questo è ingiusto! Smetti di piagnucolare! Ho vinto! E ora mi darai quello che voglio! E sarà il tuo primogenito! Non cercare di ingannarmi! Sai che otterrò quello che voglio! Con la testa bassa, Harry annuì e tornò nel suo regno. Quando arrivò, narrò tutto ciò che era accaduto a sua moglie. Non preoccuparti, troveremo una soluzione. Passarono i mesi e il re e la regina furono benedetti con un bambino. Il regno se ne rallegrò. Harry aveva dimenticato la promessa che aveva fatto al cattivo orco. Un giorno, Harry uscì per andare nella foresta a caccia. Il giorno passò e Harry non riuscì nemmeno a catturare una farfalla. Figuriamoci un animale. Stanco, tornò al suo palazzo. Quando arrivò, trovò le guardie del palazzo ferite e urlanti per il dolore. Elsie e suo figlio non si vedevano da nessuna parte. Eh? Cos'è successo qui? Un gigante ha attaccato il palazzo. Non potevamo competere con la sua grande forza. E dove sono Elsie e mio figlio? Ha portato via la regina e il principe. Abbiamo cercato di fermarlo, ma non ci siamo riusciti. Sentendo questo, Harry ricordò l'accordo che aveva fatto con l'orco. Oh no! L'orco ha preso quello che voleva. Cosa faccio adesso? Senza assolutamente sapere come salvare Elsie e suo figlio, Harry andò dal mago per trovare una soluzione e gli raccontò tutto sul suo accordo con l'orco. Potrai salvare tua moglie e tuo figlio solo se otterrai la potente spada che appartiene al re di Oz. Ah, è un mio grande amico e mi deve un favore dai tempi in cui l'aiutai a vincere la battaglia di Seran. Molto bene, allora. Prendi questo. Questo è un raro uovo di drago. Una volta ottenuta la spada, rompi l'uovo e da questo emergerà un piccolo drago. È magnifico! Pensavo che i draghi fossero estinti. Lo sono stati per molto tempo. Questo è l'ultimo uovo di drago rimasto al mondo. Dai questo al gigante. In cambio, il gigante libererà tua moglie e tuo figlio. Il re ringraziò il mago e si avventurò per salvare la sua famiglia. Andò dal re di Hawks, che gli consegnò volentieri la spada. Continuò verso la grotta del gigante con l'uovo. Quando raggiunse la caverna, corse dentro e trovò Elsie seduta in un angolo a giocare con il loro bambino. Oh, amore, finalmente sei arrivato. Mi siete mancati entrambi. Anche tu ci sei mancato. Chi osa intrufolarsi nel mio regno? Sono il re Harry e sono venuto per salvare mia moglie e mio figlio. E cosa ti fa pensare che ti lascerò andare così facilmente? Ho qualcosa da offrirti in cambio della libertà di mia moglie e di mio figlio. Che cosa? Soldi? Non prendo soldi. Penso che questo ti piacerà davvero. È qualcosa di molto speciale. Harry andò davanti al gigante e posò l'uovo del drago sul pavimento. Questo è... Prese la spada e la sollevò. Con grande forza colpì l'uovo. Si aprì e ne uscì la testa del piccolo drago. Un cucciolo di drago, vieni dalla mamma. Da così tanto ne desidero uno. Non so come ringraziarti. Chi è un draghetto carino? Oh, caldo, caldo! Andiamocene rapidamente prima che ci fermi di nuovo. Salirono a cavallo e si allontanarono dalla grotta del gigante. Harry tornò a palazzo con Elsie e suo figlio e ordinò alle guardie di catturare l'orco. L'orco fu arrestato e messo dietro le sbarre. Tutte le fanciulle nella sua dimora furono liberate e il re Harry giurò di non giocare mai più una partita di dadi. Aveva imparato che troppa fiducia è un male e che l'avidità è ancor peggio.